24 mattino estate con Irene Zerbini. Ferragosto, buona giornata. Aggiungiamo una notizia agli aggiornamenti sul traffico appena dati: a Milano potrete praticamente camminare sulla riga in mezzo alla strada a piedi bendati, non vi succederà nulla, il deserto. Buongiorno dunque, buongiorno, ancora più Irene. Meritoria la tua presenza qua, Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, confermo, io quasi ci sono delle strade che non riconosco, tanto sono completamente prive di punti di riferimento, dalle macchine ai negozi aperti, tutto. È anche molto suggestivo. Buongiorno a Carmelo Lauricella in regia, togliti la benda perché dobbiamo cominciare, siamo in onda. Oggi i forzati del Ferragosto, chi lo sa, invece potrebbe esserci una scelta dietro, visto che è così bello anche rimanere insieme. Voi tutti potete partecipare alle nostre trasmissioni. Vi ricordo che in 24 mattino estate potrete inviare un sms, tra poco daremo anche il numero. Oggi parleremo con l'uomo che, secondo l'opinione pubblica europea, ha portato l'Italia in zona euro, anche se il paese aveva allora un debito nazionale del 120% rispetto al PIL. È l'ex presidente della Commissione europea e proprio in questi giorni il suo nome viene scomodato spesso per dei paragoni. C'è chi dice che anche lui mise una tassa una tantum, lo si invoca quasi come colui che ha ispirato questo prelievo di solidarietà. Il riferimento naturalmente è alla tassa per l'Europa, il riferimento è a Romano Prodi. Questi accostamenti sono accurati? Quali sono i punti di contiguità e quali sono le grandi differenze? Ne parleremo direttamente con lui a 24 mattino estate dalle 8:30. Per le vostre domande a Romano Prodi, 349-238-6666, il numero dei messaggi sms, il numero verde 800-24-00-24. E cominciamo ora con Giulia Crivelli, la rassegna stampa. In primo piano. Giulia, dunque, in primo piano naturalmente gli effetti, i risvolti della manovra, ci sono passi indietro, è un po' fumoso il contorno, si fa fatica a capire quante province verranno abolite e poi si ritratta, abolita l'Accademia della Crusca, no? Sopravvive. Sì, una fortuna probabilmente che ci siano questi giorni di pausa, oggi soprattutto, benché sia un lunedì, perché questo potrebbe dare tempo a chi poi dovrà fare gli eventuali cambiamenti, appunto, di vedere che cosa conviene cambiare, come va presentata la manovra in Parlamento, con che spirito, se mettere o no la fiducia, sono tutte questioni di cui sentiremo molto parlare nei prossimi giorni e per ora continuano a essere il titolo di apertura praticamente di tutti i giornali. E che altro c'è a parte la manovra sui quotidiani di oggi? Beh, tanti approfondimenti per capire un po' come passeremo questo Ferragosto, quindi anche articoli un po' più leggeri, e poi c'è questa questione di Cesare Battisti che dal Brasile continua a spiegarci quanto è bello e quanto è felice di essere in Brasile, quanto è felice di essere libero in Brasile, l'ex terrorista, o chiamiamolo pure terrorista perché non si è mai pentito né dissociato, è semplicemente un assassino condannato in via definitiva che il Brasile si rifiuta di estradare, e i giornali sottolineano quanto sia fastidiosa, per usare un termine il più politically correct possibile, quanto sia fastidioso questo suo esternare sulla sua condizione di assassino libero. Ci vediamo dunque alla fine della tua lettura dei giornali, a più tardi. A più tardi, Irene, tra l'altro poi avremo un collegamento un po' con l'argomento di cui parlerà Irene, perché Walter Veltroni ha rilasciato un'intervista al Messaggero dove parla appunto di questo parallelo tra la tassa decisa tanti anni fa da Romano Prodi e Giuliano Amato, allora ministro dell'economia, e quella che viene decisa oggi, viene fatta oggi e battezzata non eurotassa ma contributo di solidarietà, come sappiamo. Ma cominciamo quindi dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore del lunedì, forse non tutti lo sanno, è di fatto un settimanale che quindi viene chiuso al venerdì, perciò non ha notizie di stretta cronaca, ma in generale degli approfondimenti economici. Questa volta sembra comunque chiuso ieri, perché gli approfondimenti sono tutti dedicati alla manovra, come del resto fanno i giornali, e quindi anche il titolo principale a 8 colonne, come abbiamo visto alcuni giorni della settimana scorsa, anche questa volta quindi un titolo che occupa tutta la prima pagina del Sole 24 Ore, ed è: chi paga il conto della stretta d'estate? A Milano il contributo di solidarietà quest'anno può arrivare a quasi 7.000 euro. Ci sono tantissimi approfondimenti, c'è anche come da più di 15 giorni a questa parte le diverse puntate del Tutto Risparmio, del manuale anticrisi. Oggi Tutto Risparmio è dedicato alla previdenza, con i vantaggi del riscatto laurea e la doppia modalità per unificare i contributi, una pagina per capire appunto come funziona questo possibile riscatto di quegli anni che chi ha dedicato agli studi per l'università può poi spostare, diciamo così, nel computo dei contributi per la pensione. Per il manuale anticrisi Fabrizio Galimberti ci parla oggi del costo del denaro, con i tassi di interesse che vanno a passo lento per i prestiti a imprese e privati. Abbiamo visto settimana scorsa, del resto, persino la banca centrale americana, la Federal Reserve, che ha annunciato che continuerà a mantenere i tassi di interesse molto bassi, quindi anche tutto quello che è legato ai tassi di interesse di base decisi dalle banche centrali, compresi naturalmente i mutui, continueranno a essere molto bassi. La Federal Reserve ha detto fino al 2013, vedremo, insomma, forse se si esce prima da questa crisi potrebbero poi anche essere ritoccati i tassi di interesse. Ci sono poi altri due articoli in prima pagina. Uno è sulla questione del federalismo fiscale, lo ha detto Formigoni qualche giorno fa: con questa manovra si decreta la fine del federalismo fiscale, se non del federalismo. E c'è un articolo di Alberto Zanardi intitolato "Il cerino finito in mano ai sindaci". Poi, per quanto riguarda quella paventata modifica costituzionale che imponga un tetto alla spesa pubblica, c'è un articolo di Vittorio Italia: il rischio di nuove valanghe di leggi. Veramente l'imbarazzo della scelta sul Sole 24 Ore per gli approfondimenti, ne vedremo alcuni comunque più tardi, anche perché questi approfondimenti sono spesso arricchiti da infografiche che danno anche una visione immediata dei dati e dei numeri di cui si parla. Il Corriere della Sera titola il super prelievo cambierà, lo dicevamo prima con Irene, abbiamo sentito tanti politici sia di centrosinistra che di centrodestra, quindi sia dell'opposizione che dell'attuale maggioranza, che hanno già iniziato, benché Napolitano abbia già firmato, il Presidente della Repubblica abbia già firmato il decreto che riguarda la manovra, che però adesso dovrà ovviamente passare in Parlamento, alcuni abbiano già pensato a come correggere questa manovra. C'è un'intervista a Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, che il Corriere sintetizza così in prima pagina: ora è invotabile, parliamo del decreto naturalmente, sulla manovra, modifiche serie e ne riparliamo. Vi dicevo dell'articolo della questione di Battisti in prima pagina sul Corriere della Sera, è una notizia che hanno tutti, però scelgo il commento di Pierluigi Battista dal Corriere della Sera: spiaggia, elogio delle donne, un nuovo libro, le vacanze a Rio di Battisti. Ve ne leggo una piccola parte. Cesare Battisti voleva dare di sé l'immagine più odiosa, più oltraggiosa per le sue vittime, più nauseante per l'intera comunità nazionale. È stato bravo, è riuscito perfettamente nell'impresa. Un assassino che ostenta il suo divertimento dopo essersi fatto beffe della giustizia. Difficile raggiungere così disinvoltamente le vette della sbrufoneria impunita. Dobbiamo ringraziare nuovamente il Brasile. Il riferimento naturalmente è al fatto che, benché condannato in Italia in via definitiva all'ergastolo perché accusato di 4 omicidi, Cesare Battisti resta in Brasile perché il Brasile ha negato l'estradizione, creando tra l'altro un incidente diplomatico, perché c'è un trattato che prevede l'estradizione in alcuni casi, ma in questo caso è stata negata. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche, come lunedì, la rubrica di Francesco Alberoni, si chiama Pubblico e Privato, che rifà questa volta alle rivolte in Gran Bretagna. E sapete, si sono molto calmate, però ci sono stati dei momenti settimana scorsa, negli ultimi 10 giorni in realtà, in cui sia Londra che altre città sono state veramente messe a ferro e fuoco. Il Premier Cameron è tornato dalle vacanze, ha schierato migliaia di agenti, sono stati eseguiti circa forse più di 1000 arresti e ora la situazione sembra tranquillizzata. Vi cito la rubrica non tanto per la possibile interpretazione di questi di queste ribellioni, di queste rivolte che ci sono state, questi disordini con tantissimi danni tra l'altro per la città, beni privati e pubblici, ma perché Alberoni fa una bizzarra, fa delle bizzarre considerazioni sugli americani che io personalmente non condivido tanto, perché secondo me la cosa positiva degli americani è proprio la loro passione, però ve lo leggo, magari ciascuno di noi ha una, anzi senza magari, ciascuno avrà una sua opinione appunto sullo spirito americano. A me questa di Alberoni sembra appunto un po' bizzarra. Scrive: gli americani non hanno mai dato importanza alle passioni individuali o collettive, ai movimenti religiosi o rivoluzionari. Le provano e le descrivono nei loro libri e nei loro film, ma sul piano della riflessione filosofica o scientifica li hanno sempre giudicati fenomeni irrazionali non degni di studio. Per questo non hanno capito la rivoluzione russa, il nazismo, il nazionalcomunismo cinese, vietnamita, non hanno capito la rivoluzione islamica di Khomeini e si sono resi conto dei movimenti islamisti solo dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Appunto, due considerazioni. Uno, che probabilmente non sono solo gli americani, ma tanti di noi, me compresa, non aver capito fino in fondo tutte queste rivoluzioni di cui parla. E poi questa idea che gli americani non danno importanza alle passioni individuali. E come si spiega allora questa incredibile elezione di Barack Obama tre anni fa, ormai quasi tre anni fa, che è stato in realtà secondo me un momento di passione politica incredibile? Poi il destino di Obama adesso vedremo quale sarà, però insomma così, vi invito a leggerlo e magari poi decidere voi se questa interpretazione è più o meno sensata o bizzarra, come l'ho definita io. Passiamo alla prima pagina di Repubblica. Il titolo di apertura è: l'Unione Europea, manovra ok, votatela subito. Quindi Repubblica sceglie di focalizzarsi sulla reazione dell'Unione Europea alla manovra. Sapete che l'intervento di Giulio Tremonti e Silvio Berlusconi nel mettere a punto questa manovra è stato anche, diciamo, accelerato dal fatto che la Banca Centrale Europea aveva inviato una lettera al nostro governo dicendo: agite subito, agite in fretta, dando anche delle indicazioni. Il contenuto esatto di questa lettera non è ancora stato reso noto, però poi si è saputo che la manovra poi presentata da Tremonti e Berlusconi venerdì rispettava in effetti di queste linee guida, chiamiamole così, della Banca Centrale Europea e quindi dell'Unione Europea, e da qui il titolo di Repubblica. A proposito di movimenti in Europa, la fotonotizia di Repubblica è dedicata al vertice che ci sarà domani tra Angela Merkel, la cancelliera tedesca, e Nicolas Sarkozy, il presidente francese. Angela e Nicolas, l'eurocoppia. Il vertice franco-tedesco di domani, scrive Bernardo Valli, accende tanti, forse troppi miraggi, prevedendo le possibili delusioni, stando a quel che dice per esempio Spiegel Online, il sito di Spiegel, che è uno dei due principali settimanali tedeschi, l'altro è Stern. I tedeschi non hanno gradito i modi in cui è stato annunciato. La notizia diffusa dai francesi li ha irritati, e fa sempre un po' sorridere che, insomma, su questi che potrebbero essere vertici di sostanza ci si attacchi poi a piccole questioni formali, come chi lo annuncia per primo. Comunque, tant'è, poi la rivalità tra Francia e Germania è di vecchia data. In primo piano. Rieccoci con la lettura dei giornali. Buon Ferragosto a tutti da Giulia Crivelli. Abbiamo visto Sole 24 Ore, Corriere, Repubblica, ora La Stampa, che come Repubblica titola sulla manovra, scegliendo di sottolineare la reazione dell'Unione Europea: misure ok, ma fate in fretta. E poi l'accenno a quella discussione che è in corso e vedremo come finirà nei prossimi giorni sulle possibili modifiche. Cresce nel PDL il fronte che chiede modifiche. Berlusconi pensa alla fiducia. Naturalmente sapete che mettendo la fiducia è un tentativo per costringere un po' tutti i parlamentari del proprio schieramento a votare un certo provvedimento, perché è come un voto sul governo in generale, e poi è anche un modo per eliminare la possibilità di presentare emendamenti o comunque di discuterli, quindi un modo per essere sicuri che la manovra passa. Berlusconi aveva detto tre giorni fa, quando aveva presentato la manovra, credo che non ci sarà bisogno della fiducia. Ora ci sta ripensando, perché appunto, come scrive La Stampa, cresce nel PDL il fronte che chiede modifiche. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche la fotonotizia. C'è Anders Behring Breivik, quel norvegese che il 22 luglio, ricorderete, ha fatto una strage sull'isola dove era in corso un raduno dei giovani laburisti, uccidendo 69 ragazzi. Ieri è stato riportato sull'isola dal alla polizia di Oslo e con una specie di guinzaglio, infatti il titolo è Breivik al guinzaglio mima il massacro di Utøya. Utøya è il nome di quell'isola dove appunto Breivik ha ucciso 69 ragazzi. Su quell'isola la polizia lo ha riportato per cercare di capire esattamente come sia andata la cosa, e lui lo si vede proprio che mima questo, il gesto di tenere il fucile e sparare, scortato, diciamo tenuto al guinzaglio letteralmente, perché di guinzaglio si tratta, da tre poliziotti. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche il richiamo a un articolo che poi all'interno occupa due pagine intere. È un reportage di Domenico Quirico ad Abab, l'inferno che salva dalla carestia. È andato in questo campo profughi al confine tra Somalia e Kenya, che lui stesso definisce l'ultimo rifugio della morte. Ci sono 400.000 disperati in questo campo profughi, il cui destino naturalmente è molto incerto, perché i campi profughi sono, per definizione, dovrebbero essere provvisori e comunque offrono un minimo di cibo e acqua, ma molto poco altro. Questo sulla prima pagina della Stampa, e poi all'interno due pagine intere, 14 e 15, con tantissime foto naturalmente molto scioccanti. Dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, da una parte un argomento naturalmente leggero, questo dobbiamo considerare il calcio sicuramente a confronto con tante altre cose. Il titolo di prima pagina è Come punce Ibra, naturalmente Ibrahimovic, il bomber svedese che fino a due anni fa era all'Inter, poi è passato da una stagione al Milan. Virgoletta, la Gazzetta: ero stressato, poi ho vinto contro l'Inter. Il riferimento è alla Supercoppa giocata a Shanghai due sabati fa, ora sono più sereno. Vi segnalo però dalla Gazzetta dello Sport un pezzo richiamato in prima pagina: la manovra di Tremonti costa la Serie A 50 milioni, sono i soldi in più da versare per il contributo di solidarietà. Chi li paga? Giocatori o club? Si fa più difficile la caccia ai top player mondiali e c'è un nuovo braccio di ferro tra Lega e Associazione Internazionale Calciatori, Associazione Italiana Calciatori. Quindi la manovra, insomma, colpisce veramente tutti, se anche la Gazzetta dello Sport sottolinea questa ripercussione sui calciatori e sulla Serie A, che appunto potrebbe essere una ripercussione o sui singoli calciatori o sui singoli club. Dal Foglio, sapete che il Foglio al lunedì ha questa edizione molto particolare che cambia anche colore, rosa, lunedì rosa arancione anziché bianco, e raccoglie quello che secondo il Foglio è il meglio dei giornali della settimana precedente. L'approfondimento, perché viene sempre dedicata la parte principale della prima pagina, è su Vasco Rossi. Sapete, Vasco Rossi ha detto prima, mesi fa, mi dimetto da Rockstar, non faccio più tour. Poi in realtà un tour l'ha iniziato, però poi si è ritirato, è stato ricoverato per una costola rotta, ha confessato di fare uso di parecchi psicofarmaci per sopravvivere alla depressione che lo ha colpito da qualche anno, e il Foglio raccoglie un po' tutte queste notizie che riguardano Vasco Rossi, pubblicate la settimana scorsa sui giornali. Il titolo di questo collage è Vasco Rossi, il malessere di un sessantenne ricoverato in clinica per un problema alla spalla, depresso, sfoga la sua tristezza sui social network. Ma vi segnalo l'editoriale di Giuliano Ferrara, come ogni giorno sul Foglio, che non poteva che essere sulla manovra. Tasse e C, il grande orrore e i piccoli orrori sostenibili. Scrive Giuliano Ferrara: è un imbroglio ideologico dire che il governo si è accanito sul ceto medio, mettendo le mani nelle tasche degli italiani, contrariamente alle promesse fatte da Berlusconi. Le addizionali IRPEF biennali e l'imposta sulle rendite finanziarie sono chiaramente piccoli orrori sostenibili. Era una promessa da marinaio escludere tassativamente che il governo Berlusconi potesse mai prelevare quattrini dalle nostre tasche a fronte del debito pubblico al 120% e in circostanze di crisi finanziaria generale particolarmente pericolose per l'Italia. Temeraria la promessa, enfatica e grossolanamente demagogica la delusione. Prima gli dicono che deve tassare, poi che ha tassato, ma che si mettano d'accordo. E vi leggo le ultime righe. Chi organizza un movimento reale contro le corporazioni chiuse e gli evasori fiscali delle grandi cifre? Un premio a chi smette di parlare di innovazioni e liberalizzazioni e innova e pratica la sfera di libertà che esiste. Un premio a chi la pianta di fare retorica sul Sud e investe e rischia in questo gigantesco serbatoio di ricchezza compresso dall'inerzia del capitalismo più ristretto, pacchiano e minore d'Europa. Passiamo alla prima pagina del Messaggero. Il titolo: manovra, duello sulle modifiche. Ecco, il Messaggero, il quotidiano di Roma, si concentra su questo aspetto che gli altri quotidiani magari non mettevano nel titolo principale, ma nei sommari o nei catenacci. IVA e pensioni tornano allo studio. L'Europa chiede tempi rapidi. Vi segnalo dal Messaggero, come dicevamo prima, sempre in tema di manovra, l'intervista a Walter Veltroni, che è a pagina 5, un'intervista di Barbara Yerkov. Basta spremere il ceto medio, questo governo non è all'altezza della crisi. E dicevamo, Veltroni torna su quella tassa che era stata messa da Prodi. L'intervistatrice gli chiede: restando per ora al merito di questo decreto, Prodi ieri su questo stesso giornale ha sottolineato come nessuna manovra potrà mai ricevere il plauso dei destinatari di tagli e sacrifici. Sarebbe stato possibile intervenire diversamente? Vedo soprattutto confusione, affanno e improvvisazione, risponde Veltroni. È vero, come dice Romano, che le manovre sono sempre dolorose. Vorrei ricordare che proprio nel governo in cui eravamo insieme lui ed io, e il ministro del tesoro si chiamava Carlo Azeglio Ciampi, fu fatta una manovra per entrare in Europa e una volta raggiunto l'obiettivo ai cittadini furono restituiti i soldi. Le manovre si devono fare e io sono perché l'assunzione di responsabilità anche da parte dell'opposizione sia totale sui saldi. Quello che deve cambiare radicalmente invece è la composizione interna della manovra. E come dicevamo prima, Romano Prodi sarà ospite di 24 Mattina Estate, sarà ospite di Irene Zarbini subito dopo la nostra rassegna stampa. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo anche un intervento di Luigi Manconi sull'emergenza carceri. Ieri c'è stato un appello di Napolitano, dopo che sempre ieri anche i radicali avevano raccolto tutte le voci di chi cerca di portare l'attenzione su questo sovraffollamento delle carceri, che è una delle vergogne dell'Italia. Ieri molte persone hanno anche fatto sciopero della fame e della sete, sempre per portare questa emergenza un po' sotto i riflettori, perché se ne riparli. È intervenuto appunto anche il Presidente della Repubblica. Nel giorno del giugno il Colle chiede tempi rapidi. Come si fa per risolvere questo sovraffollamento? C'è chi suggerisce per esempio un'amnistia, ma molti sono contrari, e il Messaggero riassume la situazione e scrive: i numeri sono spietati e indicano l'enormità del problema. In Italia ci sono circa 67.000 detenuti a fronte di una capienza di 45.000 posti. E un reportage in particolare da due delle più grandi carceri italiane, quelle di Rebibbia e Regina Coeli, in questo reportage si parla con alcuni dei detenuti: siamo costretti a dormire per terra. La prima pagina di Libero, Silvio fermati, questo è il titolo dell'articolo di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, il partito antitasse. Quello che Maurizio Belpietro scrive in realtà è proprio una lettera aperta a Silvio Berlusconi, più che un editoriale. Ve ne leggo le prime righe. Caro Presidente del Consiglio, caro Ministro Bossi, ci conosciamo da un po', diciamo più o meno dal giorno in cui entrambi avete scelto di buttarvi in politica. E conclude Belpietro: ieri abbiamo provocatoriamente raccolto l'idea di alcuni lettori che sollecitavano la nascita di un movimento o addirittura un partito antitasse. Nonostante le vacanze, le adesioni sono state moltissime. Segno evidente che la misura è colma e che dopo questa manovra tanti sono pronti a non votare più né PDL né Lega. Voi però siete ancora in tempo a far loro cambiare idea. Fermatevi e tornate a quel che eravate. Serve poco, solo un piccolo ripensamento, un passo indietro per farne altri avanti. Buon Ferragosto. Dalla prima pagina del Giornale, il signor no, ora tocca a questi. Scrive il Giornale: il governo ha varato una manovra dura, ci ha messo la faccia, i cittadini ci mettono i loro soldi, invece la CGIL sciopera, la sinistra critica, i poteri forti fanno muro, ma quando faranno la loro parte? E l'articolo principale è di Vittorio Feltri, che del Giornale è editorialista, dopo esserne stato anche il direttore. Vi leggo l'ultima parte dell'articolo, che inizia in prima pagina e continua a pagina 3. La manovra di cui si discute e che suscita polemiche nauseanti non è figlia delle effettive necessità di bilancio, ma è frutto del compromesso tra le forze che si preoccupano di produrre risorse e quelle che si preoccupano di spartirsele. Finché mezza Italia lavorerà e pagherà e mezza incasserà senza far niente, non ci sarà equità. Per cui, scusate se mi cito, sono rassegnato a diventare socio di minoranza dello Stato a cui dovrò versare il 53% del mio reddito, escluse le imposte indirette. Quindi sia Libero che il Giornale molto critici sulla manovra, e come del resto lo sono i giornali che hanno come riferimento chiaro il centro-sinistra, per esempio l'Unità. Il Manifesto oggi non è in edicola come tutti i lunedì. L'Unità scrive: tutti contro Berlusconi, rivolta interna, la maggioranza non piace il decreto, Crosetto, nel PDL siamo in tanti a contestare, critiche le parti sociali, la UE fate in fretta. C'è poi una serie di approfondimenti intitolati Anatomia di una manovra ingiusta, Lavoro, assalto ai diritti, enti locali, il fronte del no, e poi un'intervista a Franco Marini, si devono colpire gli evasori, non il ceto medio. Nulla di nuovo, direi. Vi segnalo dal Secolo XIX, il quotidiano di Genova, è un po' l'unico vero quotidiano locale che abbiamo sotto gli occhi tutte le mattine, perché si parla degli effetti della manovra sugli enti locali. Ecco, il Secolo XIX per esempio titola: primi tagli, 200 letti negli ospizi di Genova, la scarsità di fondi regionali causerà questa riduzione di letti e quindi le liste d'attesa supereranno i 12 mesi. In primo piano. Rieccoci ancora, buon Ferragosto anche da me, Giulia Crivelli. Abbiamo visto tutte le prime pagine dei giornali dedicati alla manovra, di cui si continuerà a parlare sicuramente nei giorni prossimi, e poi ad altre notizie di cronaca come le dichiarazioni di Cesare Battisti, pluriassassino condannato all'ergastolo per 4 omicidi, ma che è in Brasile da molti anni e il Brasile ne ha negato l'estradizione, e lui si diletta con queste esternazioni spiegandoci quanto è bello essere un assassino libero in Brasile. Ma vediamo dal Sole 24 Ore gli approfondimenti. Avevamo detto ricchissimo il Sole 24 Ore di approfondimenti su questa manovra di Ferragosto. C'è per esempio una pagina intera dedicata alle rendite finanziarie salate al nord, con un'infografica che indica con i pallini più grandi, quindi con una immediatezza totale, quali sono le regioni, che il possibile impatto sul territorio. L'impatto maggiore sarà naturalmente sulla Lombardia, seguono Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, quindi un po' in ordine di grandezza delle varie regioni italiane. Poi c'è un'altra pagina di approfondimento, la pagina 11, dedicata invece a questo famigerato debito pubblico. Un mondo soffocato dai debiti, nei paesi industrializzati il rapporto con il PIL tornerà a superare la soglia del 100%. Anche qui, con l'aiuto di un'infografica e di pallini che sono direttamente proporzionali alla cifra, si vede che il debito maggiore, lo sappiamo, è quello degli Stati Uniti, ormai anche in termini assoluti ma anche in proporzione, mentre in proporzione sempre è il maggiore quello del Giappone, che è il 199% del PIL. Noi con il 119% siamo al quarto posto come in termini assoluti, ma al secondo in termini di percentuale. In termini assoluti veniamo dopo Stati Uniti, Giappone, Germania, che ha 27 mila miliardi di debito, e poi appunto ci siamo noi. Passiamo magari a qualche altro giornale, anche se, come vi dicevo, il Sole 24 Ore veramente è una specie di ricchissima guida a tutto quello che riguarda la manovra, e lo sarà anche nei prossimi giorni naturalmente. Dal Corriere della Sera vi segnalo un reportage di due pagine di Ettore Mo, un grandissimo giornalista, ora è diciamo in pensione, però ogni tanto dopo aver lavorato per tanti anni per il Corriere della Sera, ma anche per tanti altri giornali e settimanali, ogni tanto però ci regala dalle pagine del Corriere della Sera qualche reportage. Questo di oggi è da Ciudad Juárez in Messico, è la città dei femminicidi, perché la guerra tra narcotrafficanti e gli omicidi sessuali non hanno risparmiato nessuna famiglia. Quest'anno, dall'inizio dell'anno, ce ne sono già stati 18. È una città, Ciudad Juárez, di confine tra Messico e New Mexico, cioè Stati Uniti. Ha poco meno di 1,5 milioni di abitanti, schiacciati in 188 chilometri quadrati. È un crocevia del traffico di droga verso gli Stati Uniti ed è considerata uno dei posti più pericolosi al mondo. Ogni giorno si stima vengano uccise 16 persone. Solo nel 2009, uno degli anni peggiori, sono morte 2600 persone. Vengono chiamati appunto femminicidi perché le donne tra i 14 e i 40 anni violentate, torturate e uccise sono almeno 5000. Se n'è di questa tragedia poco raccontata, questi crimini poco raccontati, ha parlato anche un film del 2006, si intitolava Border Town, era con Jennifer Lopez e Antonio Banderas dal Corriere. Quindi questo, io vi ho letto soltanto le schede, poi il reportage è tutto da leggere, perché appunto è il racconto di questo grande inviato che è Ettore Mo. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche un'intervista di Gaia Piccardi a Antonietta Di Martino, che tra 10 giorni sarà una specialista di salto con l'asta e di salto in alto, e scusate, non di salto con l'asta, di salto in alto. Il suo obiettivo è fare bene ai mondiali. Tra 10 giorni sarà appunto protagonista, e ci aspettiamo tutti molto da lei. Molto bella questa intervista. Chiede per esempio Gaia Piccardi: spezziamo una lancia a favore di un uomo, suo marito e allenatore Massimo Di Matteo. Pensa mai a un figlio, e come un pensiero ben presente nella mia testa è con Massi, che nella mia sfida a non arrendermi mai è stato decisivo. Ne parliamo di frequente, non è il momento, ma dopo i giochi di Londra 2012 puntini puntini. E le chiede poi come ultima domanda Gaia Piccardi: il salto perfetto è raggiungibile? Soprattutto esiste? Le sensazioni meravigliose del 2.04 di Banska mi fanno pensare di sì. Velocità giusta, tenuta dello stacco, arco preciso, un movimento fluido, naturale, in armonia con me stessa e con il mondo. Io un salto buono lo sento nel corpo, lo colgo immediatamente. Dalla Repubblica vi segnalo invece un articolo che è frutto di un colloquio con Dionigi Tettamanzi, che è l'attuale arcivescovo di Milano, che però il 25 settembre lascerà il suo posto, lascerà la guida della Chiesa di Milano al patriarca di Venezia Angelo Scola. In questi giorni era in viaggio verso la Spagna, dove ci sarà la giornata mondiale della gioventù, la 26esima giornata mondiale della gioventù, a cui parteciperà naturalmente anche Papa Ratzinger come ogni anno. E si intitola questo articolo: ancora troppi privilegi, un virgolettato di Tettamanzi, vanno colpiti i diritti acquisiti per dare un futuro ai giovani. La conclusione, vi leggo solo la conclusione, ma è un articolo molto interessante e toccante, un punto di vista religioso e allo stesso tempo laico su quello che sta succedendo in Italia, nel mondo e anche a Milano, che è la città che Tettamanzi conosce così bene. Scrive Zita Dazzi: guarda indietro, Tettamanzi, alla città di Milano che sembra così mutata dopo 9 anni, aperte virgolette, ci sono stati cambiamenti, alcuni positivi, altri deprecabili, anche a livello politico, ma vedo che alcune grandi questioni irrisolte continuano a emergere, e penso alla questione morale o agli immigrati, che sono aumentati di numero ma non hanno ridotto le loro difficoltà. Mi viene in mente il discorso iniziale che feci davanti alle autorità in Piazza Scala, quando dissi che i diritti dei deboli non sono diritto di deboli. Ecco, mi sembra che quella frase mantenga tutta la sua attualità e il suo richiamo. Chiuse le virgolette e conclude Zita Dazzi l'articolo: a Milano come nel resto del paese. A proposito di costi, di differenze, di debolezze, una pagina della Repubblica è dedicata ai costi delle vacanze, e in particolare del fare una vacanza al mare o anche solo una giornata al mare. Mare, quanto ci costi, dal gelato all'ombrellone, i prezzi pazzi delle spiagge. Al top Liguria e Puglia, 97 euro a famiglia. Caterina Pasolini ci spiega che 2 miliardi di euro è il fatturato annuo degli stabilimenti balneari italiani, 500.000 i dipendenti, 97 milioni di euro l'incasso del demanio per le concessioni. Dalla Repubblica vi segnalo una pagina intera nelle pagine di cultura, è la pagina 43, scritta da Alberto Arbasino, il grande scrittore. È una pagina interamente dedicata a Alberto Giacometti, lo scultore svizzero. Era nato nel cantone del Ticino, e Alberto Arbasini è andato un po' sulle sue tracce, ha fatto questo viaggio nei Grigioni a Coira, dove sono esposte opere e fotografie che ritraggono il grande scultore, dove c'è anche la casa di famiglia, e lì vicino ci sono poi tutti i luoghi dove lo scultore ha soggiornato. E si cerca un po', come spesso tentiamo di fare perché tanta la curiosità, si cerca di capire appunto chi era l'uomo dietro l'artista. Giacometti, forse lo sapete, è famoso soprattutto per queste sculture di figure sottilissime. Per esempio, quella scelta per illustrare la pagina di Repubblica è L'uomo che cammina, una delle sue più celebri, realizzata nel 1960, dove c'è appunto quest'uomo che cammina con queste gambe sottilissime, questo torso sottile, tutto molto sottile. Ed è un bellissimo articolo di Alberto Arbasino intitolato Divino Giacometti. C'è poi sulla stampa un anticipo di quello che succederà quando le borse riapriranno. Oggi Piazza Affari è chiusa, ci sono altre borse che però sono aperte. Domani i quotidiani, lo ricordo, non saranno in edicola perché il giorno di Ferragosto è uno dei pochi giorni dell'anno in cui i giornalisti dei quotidiani non lavorano, quelli della radio, come vedete, sì. Perciò è un po' tutto, vedremo, poi noi domani ci sentiremo comunque, però potete naturalmente aggiornarvi ascoltando i GR o su internet, però appunto la stampa anticipa un po' quella che viene chiamata la prova delle borse. Le attese degli analisti sono positive, la svolta dovrà arrivare forse dal summit franco-tedesco, quello che abbiamo visto ci sarà domani tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. La stampa che alterna giustamente argomenti molto seri a argomenti più leggeri, anche perché magari anche chi lavora oggi ha un pochino più di tempo per leggere i giornali o per leggere in generale. Ecco allora due pagine centrali della stampa, la 24 e la 25, scopri di che Ferragosto sei, una specie di test per tracciare un profilo, e i profili che la stampa propone, e si saprà a quale apparteniamo facendo questo test, sono l'intellettuale, il risparmiatore, lo sportivo, l'ecologista, il gourmet o il discotecaro. Dalla stampa vi segnalo poi la rubrica minima di Marco Belpoliti, che è un saggista, scrittore, bravissimo secondo me, ha questa rubrica sulla stampa, oggi è dedicata ai bambini che scavano buche in spiaggia, ve ne leggo solo un piccolo brano. I bambini amano scavare buche, d'estate lo fanno più volentieri e più facilmente, al mare, nella sabbia ma anche in campagna, appena trovano gli strumenti adatti, una pala, una vanga, un piccone, un tempo erano oggetti consueti in ogni casa e tutti sapevano come usarli, perché i bambini amano le buche? E poi cita un libro, La pelle del pianeta di Feltrinelli, e ci spiega: nessuno sa bene quanto debba essere una profonda una buca, perché una buca è una buca indipendentemente dalla profondità raggiunta. Spesso le buche più affascinanti sono profonde pochi centimetri. Non è un caso che, come spiega Bachelard, un tempo fossero sacre. Le buche sono un rifugio ma anche un'apertura verso l'altrove. I bambini nascosti dentro la buca, rannicchiati, scoprono la natura materna della terra e con la fantasia si immaginano di essere chi sa dove. D'estate è possibile. E vedo Irene già qui accanto a me. È molto già... poetica, sto scavando sotto la scrivania. Rubarmi la parola. Allora cito solo un'ultimissima cosa, visto che dal Messaggero poi abbiamo visto anche il richiamo a Romano Prodi, che sarà tuo ospite. Un'intervista a Valeria De Franciscis Bendoni, che ha, come dice lei stessa, 95 anni e tre quarti. Era una delle protagoniste, lo ricorderete, il film di due anni fa, del 2008, Il pranzo di Ferragosto. È ancora vivissima, quindi anche lei oggi farà il suo pranzo di Ferragosto. È molto ironica, e secondo lei Ferragosto è una festa che riduce le distanze. Sul Messaggero a pagina 36. Grazie a Giulia Crivelli. Ferragosto, oggi siamo in diretta, abbiamo raggiunto le 7:56, tra pochissimo sono pronti anche i nostri colleghi, ci sarà il notiziario, subito dopo l'incontro con i corrispondenti stranieri. Oggi andremo a parlare di Londra e dei messaggi che ci arrivano da là in seguito alle rivolte di questi giorni, con il corrispondente per la BBC dall'Italia, sarà nostro ospite, e subito dopo staremo in Europa, perché in Europa ci porterà lui, Romano Prodi, che è stato presidente della Commissione Europea. Parleremo dell'accostamento più volte sollevato in questi giorni tra questi prelievi, questa tassa di solidarietà, come è stata definita l'operazione introdotta dall'ultima manovra del governo Berlusconi, e la tassa sull'Europa, l'una tantum che lui introdusse, Romano Prodi. Sono accostamenti azzardati, sono accostamenti accurati? Lo chiederemo al diretto interessato, avremo anche le vostre valutazioni, le potete esprimere sempre via SMS al 349 238 6666 per le vostre domande a Romano Prodi, oppure in diretta al numero verde 800 24 00 24, il GR. 24 mattino estate con Irene Zerbini. Ben ritrovati, 21 minuti dopo le 8, musei aperti a Roma, avete sentito, quindi sapete anche come organizzarvi se siete nella capitale. Se invece siete alla guida, tra poco incontrerete qualcuno che ci parla dell'Italia, e ce ne parla da una prospettiva particolare, con quello sguardo sempre incantato, sempre diverso, che spesso hanno i corrispondenti stranieri, anche se vivono da anni in questo paese. Sono portatori naturalmente di modi di di fare, di cultura, di modi di vedere diversi da quelli con cui siamo cresciuti, e per questo anche di fronte ai nostri problemi a volte azzardano delle soluzioni a cui noi italiani non avevamo pensato, e viceversa naturalmente, perché in questi giorni ci stiamo esercitando in quest'arte in qualche modo, osservando la nazione da cui proviene il nostro amico e ospite. Si chiama William Ward, corrispondente da Londra per il Foglio Panorama, e da Roma per Art Desk e per la BBC Radio. Tra pochissimo andremo a incontrarlo. Vi ricordo che alle 8:30 sarà nostro ospite l'uomo che è considerato in Europa il padre dell'euro, vale a dire Romano Prodi. Proprio in questi giorni spesso si è scomodata la sua una tantum, l'eurotassa che introdusse quando capo dell'esecutivo, per fare un parallelo con la manovra, con la tassa di solidarietà che è stata annunciata, non ancora introdotta, ma annunciata in questi giorni dal governo Berlusconi. È un parallelo accurato? Ci sono davvero dei punti di contatto o ci sono invece delle grosse differenze? Voi come la pensate? Ditecelo al 349-238-6666, e se volete partecipare, dalle 8:30 si apriranno anche i telefoni, se volete porre direttamente una domanda al professor Romano Prodi, il numero da comporre è l'800 24 00 24. Visti da fuori. Buongiorno William. Buongiorno Irene, buon Ferragosto e anche a tutti coloro che ci seguono. Dove ti trovi? Che ore sono? Dunque, sono le 7:20 qualcosa e sto a casa mia nel centro di Londra, nel quartiere di Bloomsbury, e dalla mia finestra do direttamente sul British Museum, l'attrazione turistica culturale che dopo la Louvre è quella che attira più turisti in Europa, e ancora i coccodrilli di turisti italiani, giapponesi, cinesi e russi e spagnoli non si sono ancora composti, ma fra un'oretta ci saranno per riempire la strada sotto casa. Non è che avete qualcosa di equivalente al Ferragosto, anche lì chiudete tutto? No, assolutamente no, perché intanto paese e cultura non cattolica, Ferragosto, la festa dell'Assunzione, non viene prevista da parte della religione dello Stato, essendo quella anglicana di origine, quindi protestanti, e poi l'idea di chiudere il paese come usa nei paesi mediterranei è assolutamente estranea alle nostre tradizioni, cioè the show must go on. Il concetto è sempre che il paese deve continuare, e soprattutto in vista di una presenza turistica che anche per noi è molto importante per l'economia, sarebbe impensabile non continuare ad offrire anche in orari, in giorni magari scomodi, il massimo del servizio. Quindi tu ti sei stupito quando ti sei trasferito in Italia e hai constatato questa abitudine, quest'usanza dello svuotamento delle città, per esempio, in agosto? Sì, nel lontano 1979 mi sono trasferito a Roma, dove mi sono trovato, direi, benissimo. Ho trovato in Italia, a Roma in particolare, tantissime cose, spunti, fenomeni che mi sembravano, se non meravigliosi, talmente esotici e divertenti che uno, all'epoca avevo 25 anni, quindi molto, cioè, mi si adattavo molto bene a tutto ciò che trovavo. Ma davvero, d'estate, trovare chiuso per ferie questa insegna appioppata su tantissimi negozi, una cosa impensabile. Ma come? L'Italia che vive del turismo, e proprio quando c'è il maggior afflusso della gente tutto si chiude. Poi ho imparato i motivi di tutto ciò, il fatto che i sindacati in Italia, come in altri paesi continentali, controllano, almeno sembravano di controllare, ben molti dei gangli della società, imponendo i diritti o le esigenze dei loro iscritti sopra quelli dei cittadini, e direi sopra quelli delle esigenze dello Stato, anche nazionale. Beh, non sono sempre state soltanto imposizioni, chiaramente poi c'è stata una deriva che si potrebbe criticare, però le conquiste del sindacato, soprattutto quando sei arrivato tu negli anni 70, hanno fatto la storia di questo paese. Ora bisognerebbe forse imboccare una strada diversa, più flessibile. Ma senti, William Ward, voi quanti giorni di vacanza l'anno avete in Inghilterra, per esempio? Ma no, non è assolutamente, ecco, anche in questo c'è una divergenza fra l'Inghilterra e l'Italia, non è canonica come in Italia, dove queste cose vengono ancora negoziate dai sindacati vari, non c'è nessuna regola, quindi per chi lavora per lo Stato ci sarà sì e no sei settimane, di cui quattro d'estate, una a Natale e un'altra a Pasqua, ma non è detto, e poi vengono continuamente rinegoziati in base anche all'economia, non solo del paese in genere, ma delle casse di ogni organizzazione o ente. Per cui è molto una situazione, cioè nessun due cittadini godono degli stessi diritti. Dello stesso trattamento per quanto riguarda le ferie. Per quel che riguarda invece l'attenzione che sta catalizzando il tuo paese in questi giorni, ci sono notizie che ci raccontano che a seguito di questi scontri e dei saccheggi di questa settimana comincerebbe a scricchiolare anche la coalizione di governo, proprio su come comportarsi con i teppisti ci sarebbe una divergenza. Tra l'altro, una delle misure che è stata adottata, cioè quella di sfrattare i genitori che ricevono sussidi dei ragazzi che hanno partecipato ai disordini, sta naturalmente un po' suscitando critiche e scatenando polemiche. Qual è la situazione? Facci una fotografia prima di salutarci. Fai a noi da corrispondente. La situazione è questa, che in Inghilterra, nonostante i tagli abbastanza drastici a diverse forme di welfare da 25 anni a questa parte, cioè ai miei tempi da giovane era una pacchia, tu potevi vivere benissimo solo con i sussidi dello Stato, sì. Nonostante appunto che ci siano stati dei tagli storici, ancora tuttora sono molto generosi, ed è possibile per delle persone che non hanno mai lavorato e che non hanno mai voluto lavorare di avere una casa comunale gratis, avere tutte le bollette pagate, ricevere anche uno sussidio proprio per le spese giornaliere, e quindi una cosa molto ambita. C'è tutta una specie di sottoclasse, cioè al di sotto la classe operaia in senso che, cioè working class, nel senso che anche it is working, cioè che va a lavorare, quello che si chiama la working class operativo, c'è una classe di persone che vive di questi assegni welfare da generazioni. Esattamente, e diventa, infatti, successivi governi di diversi colori politici condotti da diversi personaggi con sensibilità maggiore o minore per la pena individuale delle persone, ha sempre messo in allarme la gente contro questa mentalità, cioè diventare assistito del welfare a tutto tondo crea una specie di dipendenza non meno grave di quelle dell'alcol. Questo è innegabile, sappiamo anche che chi vive in welfare non è che proprio abbia una vita così invidiabile, ma ci piacerebbe, William, tornare su queste tematiche approfondendole, sfruttandoti dunque come corrispondente. Ti sto facendo un contratto orale via etere, assolutamente gratuito tra l'altro, perché non c'è remunerazione prevista, ma se ti farà piacere parlare ancora con noi torneremo proprio su queste tematiche nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Grazie a William Ward, ci siamo parlati da Londra, è corrispondente da Londra per Il Foglio, per Panorama, Roma per Arts Desk e per la BBC Radio. "24 Mattino Estate". Ben ritrovati, voltiamo pagina, ma rimaniamo in Europa. Siamo andati a Londra, ora invece faremo una discussione tutta italiana, ma che avrà diversi accostamenti con l'Europa, con l'uomo che, secondo l'opinione pubblica europea, ha portato l'Italia in Europa, anzi in zona euro, anche se il paese allora aveva un debito nazionale del 120% rispetto al proprio PIL. Sto parlando di Romano Prodi. Buongiorno, benvenuto professore. Buongiorno a lei e saluti a tutti. Comincerei proprio dalla manovra e dai paralleli che in questi giorni, professor Prodi, sono stati fatti a più riprese tra la tassa che allora lei introdusse, l'una tantum tassa per l'Europa, e questa tassa di solidarietà prevista dal governo Berlusconi. Alcuni hanno detto c'è una similitudine, facciamo oggi come fece lei allora. Quali sono i punti di contiguità, secondo la sua opinione? Ci sono veramente dei punti di contatto o c'è una profonda differenza? Ma c'è una profonda differenza, nel senso che allora era una gara per la promozione nella prima serie europea, diciamo così, per essere concreti. Noi, per avere la possibilità di entrare nel club dell'euro, dovevamo arrivare subito al 3% del deficit. Ci siamo riuniti, era un governo che lavorava insieme in modo molto collettivo, abbiamo fatto mille conti, e se noi entravamo subito si sarebbero abbassati i tassi di interesse. Quindi abbiamo deciso che di introdurre immediatamente questa tassa, perché l'avremmo potuta poi restituire. Così è avvenuto. I tassi di interesse sono abbassati, in 3 anni abbiamo restituito i 2/3 dell'imposta come era stato stabilito. Quindi era un una tantum che sarebbe ritornato indietro. Qui invece abbiamo un problema strutturale, c'è poco da fare, il deficit in questo periodo non è diminuito come noi avevamo cominciato a farlo in modo sostanzioso, ma è aumentato, poi ci sarà la congiuntura internazionale, tutti i problemi che vuole. E di fatto qui la decisione da prendere non è di carattere congiunturale, non è una tanto, qui c'è un problema strutturale. Lei, devo dire, Romano Prodi, in questi giorni ha quasi spezzato una lancia in favore di queste scelte del governo Berlusconi, nel senso che ha fatto sapere all'opinione pubblica, anche dal Messaggero di ieri, che non si è mai sentito di una manovra che fosse bene accolta. Come a dire, ogni volta che c'è un intervento di questo tipo, l'opinione pubblica in qualche modo alzerà il sopracciglio o protesterà. Un signore. Per forza, voglio dire. La manovra vuol dire pesare in più sulle tasche degli italiani e dare meno nei benefici, questo vuol dire la manovra. Però il problema è di vedere come si fa e soprattutto se guarisce la malattia. Allora vede, noi non possiamo andare avanti in questo modo, il paese andrà alla rovina se non c'è un discorso diverso sul problema dell'evasione fiscale, cioè lo so benissimo che mettere tutti in elettronico, mettere tutti in rete, obbligare a minimizzare l'uso del contante in un modo feroce è l'unica via per andare avanti. Quando io sento che in questi giorni le cassette di sicurezza che tengono contanti in Svizzera si stanno riempiendo e non ce n'è più una, ho già capito tutto cosa sta vedendo. Allora è inutile dire ma obbligare alla contabilità è comunista. Allora vuol dire rovinare il paese, cioè siamo di fronte a due drammi in Italia diversi dagli altri paesi europei, sono la criminalità e l'evasione. Allora o noi poniamo un freno a queste due cose, in questo oggi sto parlando dell'evasione, certo. E allora l'azione, la struttura di questa operazione diventa seria, oppure niente, fra 3 anni ci troviamo nelle stesse condizioni di oggi e occorrerà qualcos'altro, ecco. Cioè lei dice soluzioni tampone che però non guariscono la malattia, c'è bisogno di una visione a lungo termine. Ma l'Unione Europea però, Romano Prodi, aspetto vede di questa di la differenza, sì, delle due cose è che mi ricordo benissimo le lunghissime discussioni prima di annunciare la manovra. Fatte con Ciampi, Napolitano, sì. Andreatta. Cioè c'era una squadra che pensava, uno può anche sbagliare dopo aver pensato tanto, ma noi facevamo tante ore e ore di discussioni con i funzionari, facendo tutte le simulazioni, e qui invece qui ognuno ha la sua tesi e ognuno ha la sua opinione. Cioè lei dice in seno alla maggioranza? Sì, è chiarissimo, cioè, no? Uno non voleva l'aumento dell'IVA, l'altro non voleva l'aumento dell'aliquota più elevata, l'altro non voleva e allora sa, ognuno ne mette un pezzo di veto, e quello che ci rimane è un pezzettino di decisione che non può risanare un paese. Ecco, questa è l'obiezione. Poi so benissimo, e lei ha fatto bene a ricordarlo, che ogni decisione di questo genere è sempre dolorosa. E poi, se dobbiamo proprio dirlo, professore, con il massimo rispetto, ma non è che anche la sua coalizione fosse molto unita. Forse prima della manovra, senza dubbio, avete avuto consultazioni, ma anche a lei, il suo governo in coalizione, qualche problema e qualche grana l'ha dato? No, non confondiamo il primo governo Prodi con il secondo. Era una rissa continua, il primo andava benissimo, il primo è stato buttato giù perché andava troppo bene, questa è la verità. Senta, l'Unione Europea sembra abbia dato un parere positivo su questa manovra, ora però, come dice lei, c'è un po' di ribellismo, come è stato definito, in seno alla stessa maggioranza, tutte le critiche vengono non solo dall'opposizione, si comincia a pensare di mettere la fiducia. Se si percorresse la strada degli emendamenti continui e dei passi indietro, che tipo di credibilità avremmo in Europa? Beh, dipende da come va la discussione parlamentare. Se la discussione parlamentare va sui contenuti e viene tenuta su una linea concreta, tutti i paesi europei sanno benissimo che il Parlamento, in un paese democratico, deve avere una voce. Se invece questa si trasformasse in una rissa, o prendessimo addirittura in questo caso il cattivo esempio dagli americani e come hanno gestito un problema analogo, allora certamente ritorniamo sotto battuta. Ora voglio ricordarvi il numero di telefono 800 24 00 24 per le vostre domande al professor Romano Prodi. Abbiamo in linea un commercialista, Lele Ardizzi. Pronto, buongiorno, intanto grazie per averci chiamato. Buongiorno. Quali sono i punti che lei metteva in risalto come molto critici della manovra, cioè gli interventi che avrebbe fatto lei se avesse avuto la possibilità? Ma diciamo che riconducendomi a quello che diceva prima il professor Prodi, ci sono, il primo punto è proprio quello dell'evasione fiscale, il fatto che si parla tanto di stiamo incassando di più dal fisco, ma ci sono delle piccolissime accortezze che non sono state mai prese in considerazione. Per esempio, andiamo al punto. Ma per esempio, non lo so, io che sono appunto un commercialista, so che mi troverò contro il resto della mia categoria e delle altre categorie, ma è mai possibile che esistano iscritti ai vari albi professionali che hanno basterebbe veramente prendere l'albo dei commercialisti, degli avvocati, degli architetti, degli ingegneri. Categoria bisognosa lei sta citando, stando... Sì, infatti. E andare a verificare chi sottostà a un regime forfettario, cioè con un ricavo che dichiara ricavi da 30.000 euro all'anno. Cioè, gioiellieri 14.000 euro l'anno fanno in Italia. Per esempio, sì. Lei però, adesso sta parlando naturalmente di professionisti e quindi è un'altra categoria, però è uno dei dati che colpisce oggi sulle comunicazioni per categorie e rilevazioni fatte. Quindi lei dice si poteva intervenire immediatamente anche lì. Bruno da Cuneo, Lele, rimanga con noi che torneremo con il commercialista. Bruno, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, mi dica. Ah, senta, io volevo solo fare qualche domanda all'onorevole Prodi. Vada, vada. Io sono pensionato, all'entrata nell'euro mi sono trovato dall'oggi al domani la pensione praticamente dimezzata. Io mi ricordo benissimo il prezzo delle mele, era 2500 lire al chilo, sì. Dopo una settimana era 2,5 euro. Le case costavano, una casa da 100 milioni, dopo un anno costava 100.000 euro. Le pensioni sono rimaste tale quali, e così andiamo avanti. Quindi sono rimaste tale quali, non è che siano state dimezzate. Il reddito fisso, intendo dire, mi riferisco al reddito fisso, praticamente siamo rimasti a metà come potere d'acquisto. Io non so se... Non ho capito qual è il riferimento, Bruno, ecco. Professor Prodi, la vecchia polemica. Dunque, di chi speculava allora, oggi abbiamo un certo tipo di speculatori, allora ci fu un grosso problema. Cosa risponde a chi le dice in sostanza stavamo meglio con la lira? Perché questo malcontento di fronte alla paura crescente... Prendo risposta, la prima al commercialista, se ricordiamoci, la democrazia si difende con le ricevute. Sia chiaro, le ricevute moderne sono un sistema elettronico che controlla quanto si spende e quanto si ricava e che lascia la tracciabilità. Se noi non abbiamo il coraggio di far questo, il paese sarà sempre un paese disastrato. Secondo, l'aumento dei prezzi dopo l'introduzione dell'euro non è così alta come dice il nostro amico, però c'è stata. Ma non era colpa di chi era a Bruxelles, come ero io allora, quando è stato introdotto l'euro nella pratica quotidiana, ma dei vari paesi che l'hanno applicata. E in due paesi solo si è verificato questo aumento dei prezzi di cui parlava l'amico che è intervenuto, la Grecia e l'Italia. Perché? Perché in Italia non si sono fatte due cose che Ciampi aveva raccomandato. Primo, le commissioni provinciali di controllo che erano state istituite non sono state fatte lavorare, non sono mai entrate in funzione. Secondo, il doppio prezzo in lire e in euro per 6 mesi, in modo che la gente potesse difendersi da solo. Io non ho mai capito perché questi semplici provvedimenti che erano stati previsti non siano stati attuati dal governo Berlusconi. Senta, professor Prodi, c'è una paura crescente in questi giorni in Europa, proprio da questi microfoni abbiamo analizzato tra l'altro l'ultima iniziativa per esempio della Danimarca, che ha instaurato una sorta di frontiera con la Germania, una sorta di controllo dogane con più uomini e più cani, che simbolicamente sembra un passo indietro rispetto a Schengen. C'è la paura dell'immigrazione, c'è la paura della povertà, c'è la paura di doversi accollare i debiti altrui, e c'è chi dice dietro l'angolo, proprio rispetto a queste situazioni che creano insofferenza, come ha sentito anche ora da questi microfoni, si tornerà indietro rispetto all'euro. 24 mattino estate. E ritorniamo in diretta con Romano Prodi, oggi nostro ospite. Per i vostri messaggi 349-238-6666, c'è chi fa dei riferimenti alle ricevute, al pagamento in contanti anche del Ministro dell'Economia, e sulle ricevute ci sono, a parte naturalmente questi commenti sarcastici, ci sono anche delle indicazioni per la risoluzione del problema dell'evasione fiscale, o almeno per un contributo. Ma torniamo invece alla fine dell'euro. Euro paventata, invocata, temuta da molti. Lei è preoccupato, professor Prodi? Preoccupato ovviamente sì, però ritengo che non vi sarà. Ha ragione lei quando dice siamo entrati nel periodo della paura. Questo dura già da parecchi anni, no? Paura della Cina, paura degli immigranti, paura. Quando la campagna elettorale del referendum francese si svolse sulla paura dell'idraulico polacco, e non c'era un idraulico polacco in tutta la Francia, significa che siamo entrati in un periodo diverso. Però vede, quando si va nel concreto e si dice abbandoniamo l'euro, i primi ad avere paura di abbandonarlo sono i tedeschi. Perché sanno benissimo che in un mondo grande come quello di oggi essere soli non va bene neanche per la Germania. Sanno benissimo che solo con l'euro possono avere una forza economica nel mondo come oggi hanno. Senza l'euro tutti gli altri paesi, cominciando dall'Italia, avrebbero svalutato e svaluterebbero la loro moneta. Lei pensi, lo ripeto sempre, che noi italiani quando io ho cominciato la mia carriera accademica, ci volevano 145 lire per un marco. Quando siamo entrati nell'euro, 990 lire per un marco. Abbiamo supervalutato il 600%. I tedeschi lo sanno benissimo che in questo caos non avrebbero e non potrebbero gestire un'economia moderna. Quindi arrivano con la demagogia fino al limite del burrone, fino al limite del precipizio, e poi si fermano. E l'Europa purtroppo cresce attraverso le crisi, e in questo andamento noi saremo per un bel po' di tempo, anche perché di fronte a noi abbiamo un'America che è in difficoltà del tutto analoghe. Una situazione anche peggiore dal punto di vista dei numeri, quella degli Stati Uniti, però c'è la sensazione, nonostante le spaccature che hanno caratterizzato in queste ultime settimane, l'abbiamo visto anche lì, lo scenario politico, c'è la sensazione di una risposta comune. A volte l'Europa manda questo messaggio di insofferenza alla disciplina comune, trasmette questa sensazione anche alla speculazione internazionale, ai mercati. A proposito di questo, apriamo la pagina italiana. Secondo lei, quali sono gli elementi che hanno trasmesso questa sensazione che l'Italia si presentasse debole, con una situazione di debolezza, gli elementi scatenanti della tempesta contro i titoli di credito italiani? Ma l'elemento scatenante è stato quello di avere dei dissidi nel governo in quel momento. Ma probabilmente sarebbe poi arrivato un mese o due dopo adesso, ma in quel momento è stato proprio spariamo sulla Croce Rossa, no? La speculazione che fa come gli Orazi e i Curiazi, cioè prende quello più debole una alla volta e lo infilza, e in quel momento l'Italia si presentava proprio assolutamente debole, perché non si sapeva, non si vedeva dove stesse andando, se ci fosse una politica economica completa. Vede, l'opinione europea sul governo italiano si è presentata negli ultimi anni estremamente severa anche con Tremonti. Poi c'è stato un periodo in cui Tremonti ha affermato una propria autorità. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, anche l'autorità di Tremonti è andata a rischio, no? E si è indebolita. A quel momento si è cominciato a sparare sulla Croce Rossa. Questo purtroppo sono. Questo è l'elemento più importante, secondo lei. Senta, parlando invece delle agenzie di rating che hanno un po' preso il posto quasi della politica degli stati nazionali con questo potere, queste grandi protagoniste della politica internazionale, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, secondo lei si potrebbe mettere fine a questo eccesso, a questo abuso di potere da parte di organismi tra l'altro nemmeno eletti? Sì, la prima cosa è più concorrenza, cioè si parla tanto della concorrenza e le tre agenzie di rating mondiale sono come qui qua, no? Cioè proprio se ne vanno d'accordo fra di loro, si giocano fra di loro e sono tutte americane, anche se una capitale francese, però sono tutte americane. Voglio dire, non c'è niente da fare, istintivamente rispondono a stimoli politici. Qui bisogna che ci siano delle agenzie europee, cinesi, indiane, tutto quello che vuole, occorre una. E questo avrebbe anche un altro vantaggio, quello di rendere relativo il giudizio di queste agenzie, che ci vuole, perché ci vogliono dei controlli, ma che vengono poi giudicate con una certa saggezza. Qualcuno propone agenzie in mano agli stati e ho delle perplessità, perché evidentemente perderebbero fortemente credibilità, perché per definizione ognuno metterebbe l'asino dove vuole il padrone. Allora, nel mercato come sono oggi è meglio che ci siano tanti asini e tanti padroni. Ora torniamo alla situazione interna, sollecitati dai nostri ascoltatori. Le ricevute, lei ha fatto questo riferimento per contrastare quantomeno l'evasione fiscale, sarebbero richieste da tutti a maggior voce, ci segnala qualcuno, se poi si potesse scaricare dalla dichiarazione di redditi anche parte di queste prestazioni dei professionisti. E, quindi naturalmente le chiedono un parere su questo. 800 24, questo è il numero di telefono, 00 24, per le vostre domande. Prendiamo anche Daniela, naturalmente telegrafica una domanda a Romano Prodi. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, lei chiama da Savona, dico bene? Sì, benissimo, sono Daniela. Sì. E volevo dire al professor Prodi come mai loro hanno le pensioni dopo 4-5 anni di lavoro, di legislatura, e noi dobbiamo invece avere le pensioni dopo 40 anni di lavoro, a 67 o a 65 anni. E come mai il loro governo, il nuovo governo, non ha messo mano a questa vergognosa realtà di questi privilegi allucinanti? Se dobbiamo avere tutti e siamo tutti gli stessi cittadini, loro dovrebbero avere la pensione dopo 40 anni di lavoro o almeno percepirla a 67 anni. Cioè, io trovo che sia scandaloso questa cosa, che loro vanno in pensione con delle pensioni d'oro, perché a me ci vogliono 10 anni di pensione per avere un mese, un anno corrispettivo del loro. Grazie, grazie a Daniela che ha sollevato, ha messo il dito in una delle piaghe più sentite dall'opinione pubblica in questi giorni, a cui si chiedono sacrifici, innalzamento dell'età pensionabile per le donne, non solo, e poi rimane questa situazione. C'è anche Franca Biglio, che è presidente invece dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni, che protesta: tagliando noi si risparmia poco o niente, eppure verremo sacrificati con grande sacrificio, soprattutto dei cittadini, a cui... Perché, Franca Biglio, buongiorno, benvenuta. Buongiorno innanzitutto. A voi. Buongiorno. Perché dice che tagliare questi piccoli comuni, che visto così da fuori sembra un po' una razionalizzazione delle spese, in realtà penalizzerà i cittadini? Beh, la risposta è molto chiara, perché anche noi abbiamo fatto i nostri conti, sappiamo fare pure noi di conto. Noi priviamo un territorio vastissimo che copre quasi l'intera superficie nazionale, per lo più collinare montano, a forte rischio idrogeologico, di 41.800 braccia che operano su questo territorio a servizio del cittadino 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Per esempio, quali sono i servizi che potrebbero venire penalizzati? La maggior parte dei servizi, partendo dal sociale, dal socioassistenziale, ai servizi essenziali, come lo sgombero neve, come la raccolta rifiuti, come il trasporto, penalizzato fortemente, quindi pagheranno ancora una volta le fasce più deboli, i bambini, perché noi distiamo dai centri più importanti, quindi dai capoluoghi. A fronte di un risparmio, lei dice, irrisorio. Allora guardi, il risparmio io glielo posso quantificare e le posso anche dire il costo attuale di 1963 comuni. Che dovrebbero sì, essere. Venga, scusi, ma dobbiamo correre, siamo in chiusura. Quindi la cifra quant'è? Dunque, la cifra noi oggi costiamo per 1963 4.832.906 euro, il costo di 11 deputati. Grazie, grazie Franca Biglio, molto efficace anche questo numero. Le sottopongono numeri, professor Prodi ha sentito, lei l'avrebbe fatta questa razionalizzazione? È una delle domande, poi dobbiamo rispondere a Daniela sulle pensioni dei politici, prima di salutarla. Sulle pensioni e sul costo della politica in genere. Ha ragione la signora, bisogna dare un minimo di esemplarità e rappresentare quello che è il dolore medio del paese, il sacrificio medio del paese, però il risparmio vero del costo della politica è tutto nel grandissimo apparato che vive di politica, cioè quando c'è stato un continuo aumento del finanziamento dei partiti. Onestamente signora, tutti i partiti sono stati d'accordo nell'aumentarlo, e i giornali e tutto, no? Giorno per giorno questo apparato si è ingrandito fino a rendere difficile all'uccello di volare. Allora questo deve essere messo nel bisogna conto. Intervenire lì. Grazie, grazie a Romano Prodi, se la verremo intervistare l'anno prossimo. Dove dovremo andare? A Roma, a Bruxelles, a New York? Se veniamo... No, restiamo nell'Appennino reggiano. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. 24 mattino estate ritorna come sempre il 16 agosto, cioè domani alle 7:15. Buona giornata da Irene Zerbini.